唇齿音 F F V V La città del Vaticano 练习 Fino Fino Vino Vino Folto Folto Volto Volto Fitto Fitto Vitto Vitto Fetta Fetta Vetta Vetta Inferno Inferno Inverno Inverno Foglia Foglia Voglia Voglia Foto Foto Voto Voto Vacca Vacca Bacca Bacca Volto Volto Bordo Bordo Vasta Vasta Basta Basta Vene Vene Bene Bene Velo Velo Bello Bello Vile Vile Bile Bile I bambini vivono felici. Tutti devono lavorare. Fuori tira forte il vento. 谚语 Proverbi. Chi va piano va sano e va lontano. Una rondine non fa primavera.